Allora, buongiorno e bentornati negli studi di Radio Città Fujiko. Oggi con me è Angelo, il cantante del fantastico gruppo La T-Rex Squad, incredibili, dei bei panchettari come piacciono a noi, soprattutto come piacciono a me. Ben trovato. Ciao Marco, grazie. Ciao, ciao. Ben trovati a tutti quanti ragazzi di Radio Fujiko. È sempre un piacere tornare da voi. Piacere anche per noi averti qui. Guarda, la primissima domanda te la faccio io proprio da curioso, anche soprattutto da questo nome che per me è veramente incredibile. Come nasce la T-Rex Squad? Cioè, con quale idea nascete? La T-Rex Squad nasce, come tutte le pessime idee del mondo, da una sbronza. Con Thomas eravamo a release party della band vecchia di Vittorio con le nostre vecchie band. Eravamo a un tasso alcolemico abbastanza alto. Ci siamo guardati e Thomas mi fa: Angelo, dobbiamo trovare un modo per divertirci tutti i fine settimana così. L'ho guardato e ho detto: beh, facciamo una band. E lui mi ha detto: dai, ci sto. Visto che noi vivevamo a distanza, perché all'epoca io stavo nelle Marche, Vittorio, Bologna, mentre Thomas stava appunto a Ferrara. Il giorno dopo, tornato a casa e ripreso un po' di lucidità, l'ho chiamato e ho detto: Thomas, ma eri serio ieri? Mi fa: ma sì, dai, facciamolo. Da qui è nata la T-Rex Squad. Poi il nome T-Rex Squad è derivato dal fatto che volevamo trovare qualcosa di caratteristico, e erano mesi che vedevamo girare online video di persone con sti tutoni gonfiabili da tirannosauro. Mi ha detto: oh, ma T-Rex Squad. Sì, dai, T-Rex Squad. E quella ha funzionato, e il resto è storia di questi giorni. Mi cogli proprio nel vivo, perché non appena ho sentito T-Rex Squad ho immaginato un pogo composto da persone col costume da dinosauro gonfiabile, che è la mia idea di paradiso. È molto bello, però fa molto caldo quell'attrezzo. Una delle prime esperienze che abbiamo fatto col tutone è stato venire lì in Piazza del Nettuno, tutti e quattro vestiti, e poi abbiamo detto: vabbè, arriviamo fino alle torri e andiamo giù dritti camminando per strada. Non l'avessimo mai fatto. Abbiamo fatto 40 gradi con la muffa di sera a marzo lì a Bologna, e ci hanno fermato praticamente tutti. È stato molto divertente, è stata la prima esperienza all'epoca. Ci siamo divertiti. Poi ovviamente dopo il tiranosauro è rimasto nei video, soprattutto a livello iconografico. Adesso attualmente stiamo utilizzando meno il tutone, però il nome portiamo avanti, quindi e a livello iconografico appunto sulle copertine rimane sempre presente e stabile. L'iconico tirannosauro, il dinosauro più dinosauro di tutti. Esattamente. Adesso, come ti ho domandato come è nata la T-Rex Squad, ti domando anche come è nata la canzone che ci avete proposto, Confini. Confini nasce troppi anni fa, quando il legittimo Stato di Israele ha deciso di occupare le terre di Palestina. Essendo noi comunque fortemente antifascisti contro tutte quante le forme di repressione, abbiamo deciso di scrivere questa canzone poi all'ottobre di 2 anni fa ormai. E abbiamo deciso di scrivere questa canzone perché comunque la situazione in Palestina è diventata inaccettabile, e oltre al fatto che Gaza praticamente non esiste più, e anche stamattina leggevo che purtroppo altri hanno ammazzato altri 6 bambini davanti a un ospedale che stavano in fila per prendere il lattopolvere. È una cosa veramente drammatica, e dovremmo tutti quanti cominciare a pensare che forse siamo più fortunati in questo momento a vivere in Occidente piuttosto che a loro, che stanno cercando di combattere con tutto quello che è possibile e cercando di resistere a questo genocidio che non si vuole fermare. Infatti è davvero terribile quello che è successo, proprio ogni giorno ci si sveglia con delle notizie terribili. In virtù di questo, qual è il messaggio che volevate mandare con la vostra canzone? Che ogni persona nasce libera e deve rimanere tale. Ogni persona nasce viva e deve rimanere tale, fino a che natura non ci richiamerà dove deve chiamarci. Quindi quello che era importante era far capire che comunque questa guerra è una guerra sbagliata, come tutte le guerre d'altronde. Non ci saranno né vincitori né vinti alla fine, ci sarà solamente altra tristezza e altro sul quale piangere. Una situazione davvero incredibilmente complicata, molto difficile, senz'altro da risolvere, ed è necessario veramente fare qualcosa. È proprio per questo che siamo qua oggi con Riart, appunto, gli artisti uniti contro il riarmo, contro la guerra, perché noi abiuriamo ogni forma di guerra, ogni forma di violenza e ogni forma di oppressione in tutte le sue forme possibili. Ma spostandoci invece un pochino di più sull'argomento della musica, io ti volevo chiedere anche a livello proprio di sound, di composizione, di suoni, e come nasce da questo punto di vista la vostra canzone? A cosa si ispira anche? Confini musicalmente nasce da un primo embrione che ha scritto Vittorio al basso, dove c'è quel giro molto preponderante che senti comunque in tutta quanta la strofa. Poi Moreno ovviamente ha messo il suo con la chitarra. Noi scriviamo in questa maniera, generalmente scriviamo in questa maniera, partiamo dalla musica e dopo sviluppo i testi su quello che mi trasmette l'emozione l'emozione stessa. Per la scrittura dei confini comunque abbiamo lavorato un po' in brainstorming, perché comunque al momento di quella di composizione ero un attimino impallato su un paio di concetti e non riuscivo a svilupparli bene, quindi di conseguenza, e fortunatamente, essendo un gruppo molto compatto, siamo riusciti a dare quell'amalgama. La canzone, proprio la base strumentale, dava un senso di tristezza e un senso abbastanza cupo dal tono, e quindi di conseguenza è stato molto naturale tirare fuori quelle parole su quella detta base, quindi è stato molto semplice a livello di scrittura delle strofe. Per i ritornelli Vittorio ci ha messo una mano pure lui, perché ero un po' fermo in quella fase e non riuscivo a chiuderla bene. Poi abbiamo la fortuna che comunque dove non arriva uno arriva l'altro, quindi siamo riusciti a concludere, quindi come chiude il ritornello non passeranno, la prima maniera assoluta. No passeran, un solito sì. Grido che si fa per mantenere la propria posizione. Ti chiedo di fare in questo momento una cosa molto simile in realtà, ovvero proprio per chiudere mandare in questo momento, sfruttando la possibilità di essere ai microfoni di Radio Città Fujiko, un appello, un messaggio che ti senti di mandare a tutti i nostri radioascoltatori. Non nascondete la testa sotto la sabbia, continuate a combattere, continuate a resistere. Non ci saranno decreti legge che ci bloccheranno, non ci saranno leggi infame e fasciste che ci tarperanno le ali, e continuiamo a testa alta e andiamo avanti. Come dicevamo prima, appunto, no passaran, non permettiamo a nessuno di metterci mai i piedi in testa, restiamo sempre liberi. Quindi vi salutiamo, io e Angelo, il cantante della T-Rex Squad. Ciao. Vi salutiamo e mettiamo adesso Confini della T-Rex Squad. Alla prossima.